alla fine sul piano antropologico. Ecco, il tentativo è quindi di risalire alle origini di questo processo, non tanto alle origini tecnologiche che rapidamente possiamo ricostruire, ma che in fondo tutti conoscono, ma alle origini culturali, ideologiche, immaginarie. E uso tutte e tre queste parole perché hanno un significato ed una sfumatura differente. Ecco. Culturale è una parola troppo densa per poterla sintetizzare. Cultura, parola cultura ha un significato più creativo e un significato antropologico. Cultura è ciò che noi creiamo, cultura viene dal latino collere, che significa coltivare, dunque c'è un'idea di coltivazione, di creare, di far nascere, e però poi cultura ha anche invece un significato di tipo antropologico che riguarda le stratificazioni di ciò che è già stato coltivato nella dimensione umana, mentale, eccetera. E certamente l'innovazione della rete rappresenta una trasformazione culturale nel senso propriamente antropologico. Il tedesco, la lingua tedesca distingue Bildung e Kultur, per dire quello che noi diciamo con la parola cultura. E Bildung è l'attività del creare, del costruire, del produrre conoscenza, immagine, eccetera. Kultur invece è la sedimentazione antropologica, ciò che si trasforma sul piano, vorrei dire, evolutivo. Ecco, certamente la rete marca in modo profondo la dimensione evolutiva umana. Ecco, poi bisognerebbe chiedersi cosa vuol dire evoluzione, che cosa distingue la parola evoluzione dalla parola storia, che cos'è la storia, che cos'è l'evoluzione, in che modo la storia interagisce con l'evoluzione, in che modo l'evoluzione contestualizza la storia. Io direi che la parola storia, con la parola storia noi ci riferiamo ad una dimensione del divenire, del divenire umano, in cui l'azione consapevole, volontaria, ha un ruolo determinante. La storia è questo essenzialmente, cioè è il divenire in quanto gli umani agiscono consapevolmente, volontariamente questo divenire. Con la parola evoluzione ci riferiamo invece ad una dimensione in cui l'umano è coinvolto in qualche misura in maniera non voglio dire proprio passiva, ma insomma come un effetto, non l'evoluzione prescinde dalla volontà umana in qualche misura. E perciò quando diciamo, che ne so, quando parliamo in termini antropologici della storia del divenire che rende possibile la formazione del neolitico, la lavorazione della pietra, o piuttosto quando parliamo della genesi dell'umano anche proprio. Non stiamo parlando di una dimensione in cui la volontà umana possa svolgere un'azione, stiamo parlando di qualcosa di un processo in cui l'umano è coinvolto senza possibilità di azione consapevole. E ad un certo punto nella storia del pensiero, soprattutto del pensiero occidentale, acquista un rilievo straordinario l'elemento costituito dalla volontà, dalla coscienza, dalla politica anche. Non è, diciamo, non è l'intera storia umana ad essere caratterizzata da questa autoconsapevolezza, è la modernità in fondo, è nella modernità che parliamo propriamente di storia, con quell'enfasi forte che dà questa parola l'idealismo tedesco, ad esempio, poi insomma tutto il pensiero della dialettica moderna. Nell'Ottocento e nel Novecento noi siamo convinti che l'uomo fa per forza di pensiero, di volontà, di critica, e finiamo per attribuire alla potenza dell'azione volontaria una forza quasi decisiva, demiurgica, per dirlo con l'idealismo tedesco, no? Demiurgo, come questa divinità umana che determina, decide, vuole. Ecco, se giungiamo al nostro tempo, se giungiamo all'oggi, se giungiamo ai 40 anni della storia della vicenda, piuttosto, diciamo, del ciber, la formazione, lo sviluppo, la piena emergenza delle tecnologie digitali, forse dobbiamo ridimensionare il ruolo della volontà umana, e forse dobbiamo riconoscere che che quell'enfasi, quella retorica della volontà e dell'azione politica come determinante dei processi del divenire, insomma, va ridimensionata. Allora qui si apre una questione molto interessante, non so neanche perché mi ci sono infilato, ma una questione che ci riporta dalla dimensione in cui la volontà cosciente umana ha una funzione decisiva ad una dimensione in cui la volontà cosciente umana diventa uno dei tanti fattori, forse non più, non più decisivo. Le tecnologie di cui stiamo parlando giocano un ruolo importantissimo in questo ridimensionamento. Perché? Perché le tecnologie digitali tendono a creare delle catene tecniche, delle catene di automatismi tecnici che funzionano come fattore decisivo nel processo, nel processo sociale, nel processo economico, nelle relazioni comunicative, eccetera. È come se, lo dico senza, cioè ci penso molto a questa questione, però non è che sono proprio arrivato a capire bene come funziona, perché poi siamo completamente sommersi in questo momento. Se ci pensate, la tragedia di questi anni, particolarmente visibile in Europa, è anche la tragedia dell'impotenza della politica. Noi possiamo decidere questo o quello, votare, ribellarci, ma penso che non cambia praticamente nulla nella concatenazione, della grande concatenazione degli eventi che determinano i processi tecnici, comunicativi, sociali, finanziari, economici, eccetera. Come mai? Un secolo fa la politica sembrava capace di tutto. La volontà umana si coalizzava, si costituiva in forme di partito, di Stato, di esercito, di volontà organizzata. E la volontà organizzata modificava il corso degli eventi, e trasformava in modo decisivo, radicale, l'economia, le modalità di comunicazione, perfino la disposizione dei territori, degli esseri umani sui territori. Ecco. Oggi l'impressione che proviamo è che se la politica aveva raggiunto una potenza così grande, oggi è ridotta ad un naneruncolo che non... l'espressione naneruncolo rischia di farci pensare a ogni riferimento a cose e a persone realmente esistenti e puramente casuale, ma la politica è diventata un elemento di puro spettacolo, ma di scarsissima potenza trasformativa. È un'esperienza che facciamo sia nella politica, diciamo così, ufficiale, sia se andiamo a vedere la dimensione che è quella dei movimenti. La potenza trasformativa dei movimenti è diventata praticamente irrilevante rispetto ai processi. Vediamo quello che è successo negli ultimi 10 anni, 15, dal 99, dalla rivolta di Seattle nel 1999, poi seguiamo tutta la fase dei social forum, della formazione del movimento cosiddetto No Global, poi arriviamo agli anni recenti con l'esplosione dei movimenti contro il capitalismo finanziario, il movimento Occupy, insomma tutto quello che è successo fino a un anno e mezzo fa è sorprendente da una parte quanto ampia è stata la mobilitazione, perché forse voi stentate a rendervene conto. Ma non dobbiamo pensare, non dovete pensare che i movimenti che voi avete letto sui giornali fino a poco tempo fa fossero limitati in termini quantitativi di mobilitazione, no, erano ampi, non meno ampi di quelli degli anni 70. Ma la loro capacità di incidere, di modificare, era invece 100 volte inferiore. Perché? Perché è cambiata proprio la composizione tecnica del sociale e gli automatismi hanno preso il posto della volontà politica, risponderei in maniera un po' sbrigativa. Bene. Quindi io ho proposto questo corso che cerca un poco di ricostruire la genesi della forma attuale del sistema tecnocomunicativo e del rapporto fra sistema tecnocomunicativo e dimensione sociale, con l'intenzione di ricostruire non tanto proprio quello che è accaduto, ma quello che è stato immaginato, previsto. Quindi il mio è piuttosto un lavoro sulle ideologie e sulle immaginazioni. Immaginazione è una parola decisiva quando ci occupiamo del sociale, delle sue proiezioni, del suo divenire, perché immaginazione non è semplicemente una facoltà, l'immaginazione non è semplicemente una facoltà che attiene alla dimensione fantastica. L'immaginazione è la capacità di precostituire le condizioni concrete in cui poi andare a vivere, ad abitare. Prima di abitare una casa bisogna immaginarla, bisogna immaginarne le strutture, le forme, i colori, la possibilità di interagire con il luogo nel quale poi abiteremo. E quindi il pensiero, l'arte, la narrativa, il cinema, nel corso degli ultimi 40 anni hanno svolto un ruolo fondamentale nel costituire le condizioni stesse per abitare il mondo tecnico che andava contemporaneamente costituendosi. Ecco, per entrare in questa questione, che abbraccia un periodo storico molto vasto, insomma, molto, abbastanza vasto, diciamo, fino ad ora abbiamo letto alcune cose che sono state scritte o dette nel 1964, quindi siamo partiti da allora. Oggi vado ancora più lontano, vado agli anni 40 per cercare appunto i momenti in cui l'immaginazione relativa all'oggi, alla rete dispiegata e così via, si andava costituendo. E il riferimento ai libri di Caronia, da questo punto di vista, è centrale. Caronia, credo che in Italia sia stato uno dei pochissimi che hanno ragionato sul rapporto tra cultura, immaginazione artistica e trasformazione tecnologica. Perciò io propongo alcuni brani essenzialmente da tre libri di Caronia, che sono il Cyborg, Archeologia del virtuale e il libro dedicato a Philip Dick, La macchina della paranoia. Non è, insomma, io leggerò magari un paio di articoli, di capitoli presi da questi libri, non ve li dico non perché dobbiate leggere quei tre libri, ma perché quelli sono, secondo me, i libri in cui nella complessiva bibliografia italiana lì troviamo forse le cose più interessanti che sono state dette a proposito dell'argomento del quale andiamo chiacchierando. Punto. Adesso io riprendo da un altro libro, che non è uno di quei tre, ma dal libro di Turner, che Elena. Elisa ci ha suggerito che lo troviamo in rete. Allora io ho l'indirizzo di questo libro, lo mando una volta adesso in segreteria, mi devono dare i vostri indirizzi email, dopo vi mando un po' di bibliografia oltre alla traccia del corso che già vi ho distribuito, ma non a tutti. Io avevo il dubbio che fosse un riassunto, però mi sembra intero libro. Sì, non ho capito, un riassunto? No, il PDF, avevo il dubbio fosse un riassunto, sì. O mi sembravano poche pagine, però non so, è tutto? Io non lo sono andata a guardare. Ok. Ho ricevuto l'indirizzo, me lo sono messo da parte, okay. Ma avendo il libro ho detto bene. L'ho scaricato perché si trova facilmente, si trova... Ok, sì. Allora forse lo stesso. Sì, no, ma penso anche io che debba essere. Se qualcuno non credo che non ce l'ha, forse è tu. Comunque qua c'è la traccia del corso. Dunque, From Counterculture to Cyberculture di Fred Turner è un libro che è interessante perché ricostruisce la storia proprio di quello che dell'argomento del quale stiamo parlando e lo fa centrando l'attenzione, devo dire del tutto legittimamente, su un territorio specifico che è quello californiano. Proprio la California è qui al centro della attenzione, perché Fred Turner dimostra come non soltanto in California abbiamo avuto tra gli anni 80 e 90 le più importanti concentrazioni di progettazione, sperimentazione, ricerca e produzione del digitale, da Silicon Valley come distretto dedicato all'alta tecnologia, all'informatica e così via, e San Francisco, la Bay Area, come luogo dedicato alla ricerca, all'innovazione, all'immaginazione, Los Angeles come luogo della proiezione mediatica di tutto questo. Non c'è dubbio che la California ha svolto un ruolo decisivo su questo piano qua, ma Fred Turner ci fa notare che la California è anche il luogo in cui si forma, fino dagli anni 60, anche l'atmosfera mentale, culturale, immaginaria, teorica, politica che si predispone alla trasformazione tecnica digitale. E per fare questo Fred Turner parte addirittura con intuizione secondo me molto interessante, parte dal movimento studentesco di Berkeley, che prende il nome di Free Speech Movement, che ha la sua prima esplosione nel 1964, quindi con un largo anticipo rispetto allo sviluppo mondiale dei movimenti studenteschi, che come sapete si verifica nell'anno 1968. Nel 64 a Berkeley esplode un movimento di grande vastità, che in qualche modo è una specie di concentrato di molte delle tematiche che negli anni successivi dilagheranno negli Stati Uniti d'America, in Europa e in larga parte del mondo, non dirò in tutto il mondo, perché naturalmente il 68 ha anche facce differenti da quella californiana, che ne so, c'è un 68 cinese per esempio, o il cecoslovacco, sono naturalmente diversi, se non altro per il contesto in cui si svolgono, però la grande questione che nel 64 viene posta al centro dell'attenzione a Berkeley, a mio parere, può essere considerata come la questione fondamentale, la questione del movimento studentesco, la questione della tarda modernità, la questione intorno a cui si gioca in qualche modo anche il destino di quel movimento e poi della società in generale. Qual è questa questione? Lo dice, fin dalle prime pagine, questo libro, riportando le parole di un dirigente studentesco italo-americano che si chiama Mario Savio, che rimane molto noto in America. In America Mario Savio è un nome che identifica un'epoca, e Mario Savio rimane, poi non so che cosa abbia fatto, cosa sia diventato, non ho più avuto sue notizie, ma è bastato quel discorso che qui viene riportato per in qualche modo per dare una identità teorica, filosofica oltre che politica, a quello che poi è passato alla storia come il Free Speech Movement o il movimento studentesco, eccetera, eccetera. Cosa dice Mario Savio? Abbiamo già letto, ma possiamo ben rileggerlo. Lui fa un discorso davanti a 5.000 studenti il 2 dicembre del 1964, dicendo varie cose: l'università va considerata come un'autocrazia, i direttori dell'università si considerano non dei docenti ma dei manager, è come una corporation, gli studenti sono materiale grezzo da trasformare, però dice lui: "We are a bunch of raw material that don't mean to be made into any product." Noi siamo materiale grezzo che non ha intenzione di accettare di essere trasformato in un prodotto. Noi non vogliamo finire per essere comprati da qualche cliente dell'università. Noi siamo esseri umani. Naturalmente sentire oggi queste parole può sembrarci retorico, ma provate a dirlo nel 1964, che l'effetto è un po' diverso. Denunciare l'università per la sua aziendalizzazione è tema che negli ultimi 10 anni in Italia abbiamo, o anzi 20, in Italia abbiamo sentito ripetere molte volte. In California questo tema, il rifiuto della trasformazione aziendale, della subordinazione dell'università al sistema economico, è un discorso su cui in qualche modo inizia tutto. E continua, prego. Che ora suona retorico? Cioè... Beh, perché lo abbiamo sentito dire tante volte. Sono 20 anni che si dice la scuola non è un'azienda, niente che si compri, niente che si venda, e siccome poi invece lo diventa un'azienda, che lo vogliamo o no, alla fine ripeterlo 100 volte ti dà l'impressione che si tratti di un discorso retorico. Non lo è, naturalmente. Ecco. E continua il suo discorso con queste parole, Mario Savio. C'è un momento, c'è un tempo in cui l'operazione della macchina diventa così odiosa, makes you so sick at heart, ti fa sentire così malato nel cuore, ti fa sentire così male che non puoi più prendervi parte. Non puoi più prendervi parte nemmeno tacitamente. E tu devi mettere il tuo corpo contro le rotelle e contro le ruote. Qui descrive la macchina universitaria con una macchina con delle rotelle e delle ruote. Noi dobbiamo mettere il nostro corpo per fermare le rotelle e le ruote, contro le leve, contro l'apparato, per fare in modo che si possa fermare. Dobbiamo indicare alla gente che dirige tutto questo, alla gente che è proprietaria di tutto questo, che se non ci lasceranno liberi, impediremo alla macchina di funzionare del tutto. Per capire quello che sta dicendo Mario Savio, al di là dell'aspetto drammatico delle sue parole, dobbiamo tenere conto del contesto in cui dice queste cose. Dobbiamo ricostruire il contesto. E qual è il contesto? È quello della guerra nel Vietnam, che caratterizza la scena politica americana e che sta all'origine dell'esplosione del movimento studentesco. Ho già fatto notare che negli anni 60 e 70 in America c'è la coscrizione obbligatoria, cioè gli studenti sanno che gli arriva la cartolina e debbono partire per il Vietnam, dove 50.000 americani sono stati uccisi, oltre che 2 milioni di vietnamiti. E quindi c'è una questione molto presente nella vita studentesca. Oltre a questo c'è la consapevolezza del fatto che la guerra entra direttamente come fattore di trasformazione della macchina della ricerca. Il sistema di ricerca americana in quegli anni viene, non solo in quegli anni, ma in quegli anni in modo particolare, viene impegnata a supportare la guerra, a creare nuove tecniche militari, nuove tecniche psicologiche, non solo il sistema tecnico-scientifico, ma anche quello umanistico, vengono messi al lavoro per preparare, finanziare, organizzare la guerra. E, questo è l'elemento più diretto, la consapevolezza più immediata che si presenta alla mente degli studenti di Berkeley, ma in realtà questa consapevolezza diventa poi un elemento, un inizio che permette di ricostruire l'intero scenario del rapporto fra capitalismo e sistema educativo e sistema della ricerca e dell'educazione. Ecco, inizia da qui la guerra del Vietnam, di per sé è un evento gigantesco, però non è che un evento fra i tanti, ma a partire da una riflessione su questo evento diviene possibile capire che nell'epoca moderna e particolarmente nel XX secolo la struttura complessiva della ricerca e dell'educazione, della formazione, sono state progressivamente sottomesse agli interessi dello sviluppo capitalistico o più precisamente agli interessi di una parte dello sviluppo capitalistico, in questo caso del sistema militare. E, ecco, io direi che questo elemento, questa intuizione, questa idea che Mario Savio esprime nel suo discorsino qua, si può considerare come un elemento fondamentale, vorrei dire quasi, anzi, l'elemento fondamentale senz'altro di tutta la storia dei movimenti studenteschi. Naturalmente i temi poi si moltiplicano, ci sono molte altre questioni che vengono fuori nel corso del decennio che segue al free speech movement, ma il cuore della questione, a mio parere, è proprio nel rapporto tra economia e scienza, economia e sapere, diciamo, sapere nel suo senso più ampio, e quindi il sapere scientifico, il sapere tecnico, il sapere umanistico, sottomessi progressivamente all'economia capitalistica. È come se un ambito del sapere, un ambito molto particolare che è la scienza economica, ammesso che l'economia sia una scienza che io non ne sono sicuro, anzi credo proprio che non lo sia, comunque è come se l'economia come sapere si trasformasse nel dominus incontrastato, nel padrone epistemico del sapere complessivamente inteso. E cos'è l'economia? È una domanda interessante questa, no? Cioè, cos'è esattamente l'economia? È una scienza così come lo è la fisica. La fisica, cos'è la fisica? La fisica è un sistema, adesso mi sono incamminato per un sentiero piuttosto difficile, ma senza pretese di esaustività, Io direi che una scienza è un sistema di sapere che possiede un suo oggetto, che costruisce un suo oggetto, che costruisce linguisticamente, conoscitivamente il suo oggetto attraverso l'individuazione di costanti, di leggi che esistono, che hanno un corrispettivo oggettivo indipendente dal sapere medesimo. Il sapere costruisce il suo oggetto, ma l'oggetto esiste a prescindere dal sapere. Se io faccio l'affermazione scientifica secondo cui la Terra gira intorno al Sole, io ho costruito un modello linguistico, ho detto, ad esempio, ho definito cos'è la Terra, ho definito cos'è il Sole, ho definito cosa vuol dire girare intorno, tutte quelle cose che sembrano niente, ma sono difficili da concettualizzare. Però la Terra e il Sole, per la miseria, ci sono davvero, cioè preesistono al mio atto di nominazione, di... no? Ecco, se io dico che invece i salari debbono stare fermi se vogliamo che la crescita riprenda, sto descrivendo qualcosa? A me pare di no. Cioè, l'economia, oltre ad essere un sapere che non sa niente, perché in maniera regolare, sistematica, gli economisti prevedono sbagliato, cioè è una cosa quasi costitutiva del sapere economico, la incapacità di fare previsioni. Ma quello che è più sorprendente nel sapere economico è il fatto che si tratta di un sapere che non si riferisce ad un oggetto, ma lo costituisce. E dunque un sapere che costituisce o che entra nella costituzione del suo oggetto, a mio parere va definito come una tecnica, come una modellazione del reale più che una scienza, cioè una concettualizzazione di un reale che esiste a prescindere da. Ma vabbè, questa è una questione epistemologica che a mio parere rimane un po' trascurata nel discorso filosofico contemporaneo. Invece mi pare così importante, perché gli economisti si presentano sempre come quelli che bisogna stare ad ascoltare perché loro sanno. Dunque, tanto per cominciare, nel 1929 come nel 2008 gli economisti non hanno previsto assolutamente degli eventi di portata catastrofica, e come se per l'appunto i fisici non fossero in grado di dirci che cos'è la forza di gravità, cioè, non lo sappiamo. E vabbè, allora andate a fare un altro mestiere. Allo stesso modo, gli economisti nell'arco di un secolo non hanno minimamente previsto gli eventi più importanti e travolgenti della storia dell'economia di questo secolo. Beh, che vadano a fare un altro mestiere, o che ammettano che il loro non è un sapere scientifico, è semplicemente una tecnologia che mira a perseguire delle finalità. E allora poi bisognerà entrare nel merito di quelle finalità, perché mentre il sapere scientifico ci dice com'è il mondo, scusate la banalizzazione, il sapere scientifico ci dice la Terra gira intorno al Sole, non è che possiamo cambiare le cose, così punto e basta. E il sapere economico non ci dice com'è il mondo, ci dice che no, bisogna fare così oppure bisogna fare cos'ha, bisogna scegliere l'austerità o bisogna scegliere l'inflazione. Due cose magari in contrasto fra loro che indicano dei percorsi differenti e che soprattutto rappresentano degli interessi differenti. Se si va in quella direzione alcuni guadagnano e altri perdono, se si va in quella alcuni perdono e altri guadagnano. Dunque è una scienza questa o è invece una tecnologia ideologicamente orientata? Chiuso questo argomento troppo complicato per... era semplicemente, non mi ricordo perché, ah no, perché dicevo, all'origine delle tematiche che caratterizzano i movimenti studenteschi vi è una problematizzazione del rapporto fra sapere, saperi ed economia. E l'economia come sistema costituito secondo interessi e scelte che non sono naturali, che non sono scritti nella mente di Dio, che non corrispondono a delle leggi eterne, non esistono le leggi dell'economia. L'espressione leggi dell'economia è un'espressione truffaldina, a cui non corrisponde nulla. Sono le scelte dell'economia, le tecniche dell'economia. E, mentre ci sono le leggi della fisica, ecco, se dico che i corpi sono attratti per forza, per la via della forza di gravità, sto dicendo una cosa che poi posso, posso verificare a prescindere dal mio intervento, diciamo così. Il mio intervento, l'intervento dello scienziato, del fisico, è rilevante, certo, perché concettualizza, perché costruisce le condizioni concettuali per comprendere qualcosa che esiste però a prescindere dalla concettualizzazione, mentre nell'economia nulla esiste a prescindere dal non so se riesco a spiegarmi. Ma. E, ecco, dunque, all'origine dei movimenti ci sta, quei movimenti che il libro di Turner definisce con l'espressione counterculture, controcultura. Counterculture è un'espressione che viene molto usata in America negli anni 60 e che poi negli anni successivi giunge anche in Europa, in Italia. Non perché controcultura, perché è quella cultura che nasce in quegli ambienti che si oppongono alla cultura dominante, semplicemente. E ci sono espressioni, possiamo usare espressioni più significative, più dense, possiamo chiamarla cultura anti-autoritaria, possiamo chiamarla in questa occasione specifica cultura anti-imperialista, perché si oppone alla guerra imperialista nel Vietnam, possiamo chiamarla cultura anticapitalista, possiamo chiamarla in tante altre maniere, ma l'espressione counterculture è quella più comprensiva e che ci permette di definire un campo molto variegato al suo interno. E Fred Turner compie questa operazione storiografica e filosofica, che è per me molto interessante, di vedere come la counterculture degli anni 60 sta per molte ragioni all'origine della cyberculture degli anni 90. Non solo perché alcuni dei personaggi che animavano la scena negli anni 60 li ritroviamo ad animare la scena tecnologica degli anni 90, 60-90. E non solo per questo, ma anche perché a guardare i contenuti teorici, immaginativi della scena controculturale, della scena ciberculturale, vediamo che molte questioni si presentano magari con un segno mutato, ma si presentano con una forte continuità, quasi come se per certi aspetti la cultura degli anni 60, la controcultura degli anni 60, avesse immaginato in forma utopica ciò che negli anni 90 la rete trasforma in una realtà vissuta. Naturalmente il discorso deve poi rimanere sospeso, perché quella realtà vissuta è tutt'altro che un'utopia felice, e lo scopriremo nel nell'ultimo ventennio, insomma fra gli anni 90 e gli anni 2000, lo scopriremo negli anni in cui internet si sviluppa come nuova storia. Però se noi ci limitiamo, se noi scegliamo come punto zero, come punto centro del nostro ragionamento il 1993, tanto per dire, cioè l'anno in cui internet inizia il suo svolgimento, e 92, 93, insomma i primi anni 90, se noi scegliamo quel punto, per molte ragioni si può pensare alla formazione del continente o del, piuttosto dell'universo digitale come una realizzazione di un'antica utopia antica, di una utopia ormai trentennale che aveva attraversato i movimenti controculturali a partire dal 1960. È poi vero questo? No, non è vero, scopriremo che in realtà internet non è un'utopia. Internet non è, come dice Gerd Löfink nel suo libro uscito recentemente anche in Italia, internet non è il paradiso come la cibercultura aveva immaginato, però noi ci fermiamo affatto. In questa prima parte del mio ragionamento io vorrei vedere come il movimento rappresentato da questo discorso di Mario Savio contiene alcuni elementi che porteranno alla formazione della cibercultura. Sul piano biografico potremmo citare molti esempi, dall'esempio di Steve Jobs e Steve Wozniak, che sono i creatori del sistema Apple, dell'azienda che negli anni 70 dà vita alla produzione Macintosh e poi a quello che è oggi diventato l'immenso impero produttivo e tecnico della Apple. Beh, Steve Jobs e Steve Wozniak vengono dall'esperienza del Free Speech Movement. Negli anni 60 la frase Information to the People è una frase che nasce nel movimento di Berkeley. Naturalmente la frase Information to the People ha un significato molto diverso se a dirlo è il movimento degli studenti di Berkeley o se a dirlo è un'azienda che produce iPad o produce sistemi informatici. Naturalmente si tratta di due effetti di discorso molto diversi, però c'è una linea immaginativa che noi possiamo ricostruire a partire di lì. Dicevo prima che oggi vorrei risalire ancora più indietro nella genealogia di quella che possiamo chiamare cibercultura, ma che poi potremmo chiamare anche ideologia virtuale, ideologia digitale o net cultura, a seconda poi delle sfumature e delle intenzioni con cui queste parole si usano. Voglio risalire ancora più addietro, voglio risalire addirittura agli anni 40, al momento in cui, quando ancora la questione informatica si pone in termini unicamente teorici, non esiste ancora una produzione informatica, se non allo stato rudimentale. E in questo periodo negli Stati Uniti abbiamo una soprattutto diciamo di laboratori di ricerca, una dimensione di ricerca che va in direzione della creazione delle tecnologie informatiche, ma anche in direzione della creazione di condizioni concettuali, immaginarie ancora una volta, che sono quelle che prepareranno l'informatica. C'è un personaggio a cui Turner dà un rilievo abbastanza importante, che si chiama Norbert Wiener. Probabilmente Wiener è un nome che vi è capitato di sentire, e se non altro perché è considerato come il padre della cibernetica, altra parola che svolge un ruolo interessante nella genealogia della cibercultura. Norbert Wiener. Ecco, in italiano voi trovate un libro che era edito, io ce l'ho nell'edizione Bollinghieri, però credo che sia stato riedito da Il Saggiatore recentemente, però insomma adesso è un libro molto noto che si chiama Introduzione alla cibernetica. Piacere. Prego. Mi chiamo Franco Berardi. Ah, mi fa piacere. Sì, tra l'altro la stampa. Dicevi? È la ristampa, però abbiamo visto con lui. Ah, i bollati Bollinghieri. Sì, perché è identico. Questo è un libro davvero molto molto interessante, appassionante. È un libro di filosofia, di tecnologia, non vi serve per capire come funziona un computer, perché è stato scritto alla fine degli anni 40, e però gran parte della concettualizzazione che noi usiamo oggi per orizzontarci nell'ambito della vita trasformata dalle tecnologie digitali, e gran parte dei concetti sono stati originariamente elaborati da Norbert Wiener in questo libro. Prima di tutto il concetto stesso di cibernetica, una parola composta da due termini che vengono entrambi dal greco, e cyber significa cervello. Il suffisso netica, ma automatica, si riferisce all'effetto di automazione che riguarda il cervello, cervello automatico. Ecco, partendo dall'ambito delle scienze fisiche, dall'ambito della sociologia della comunicazione e dall'ambito naturalmente delle ricerche che dalla logica vanno fino all'informatica, Norbert Wiener ragiona sul processo che porta alla creazione di automi, di macchine capaci di agire come il cervello umano. È dunque una sorta di introduzione alle trasformazioni che le tecnologie informatiche porteranno poi nei decenni successivi nei vari ambiti su cui Wiener apre il suo ragionamento. Ma a me interessa, anzi non a me, a Fred Turner, all'autore del libro di cui ci stiamo occupando, interessa soprattutto cercare di capire come Norbert Wiener ragiona sulle evoluzioni possibili delle tecnologie delle quali lui sta immaginando gli sviluppi a venire. Piccola interruzione, io sto parlando di un libro che si chiama From Counterculture to Cyberculture di Fred Turner, un libro che potete trovare in rete, vi farò avere l'indirizzo, lo faccio avere appena possibile. Insomma, comunque è un libro che si può trovare in rete e che non è che ve lo leggo tutto, che ve lo dovete leggere tutto, però è un po' il punto di partenza del ragionamento che io sto cercando di fare sulla genealogia della cibercultura, sulla genealogia di quelle forme culturali, ma anche immaginarie, che accompagnano lo sviluppo delle tecnologie digitali. E attraverso una ricostruzione di queste categorie io cerco di vedere un poco come gli anni 60, le culture degli anni 60 anticipano in qualche modo le culture degli anni 90. E questo libro è proprio sul passaggio dagli anni 60 agli anni 90 nello scenario californiano in modo particolare. Per finire, io faccio questa ricostruzione di un quadro molto generale per avvicinare la lettura di alcuni testi di Antonio Caronia, cioè la ragione per cui lavoro su queste cose è perché ci permette di avvicinarci ai testi, ad alcuni dei testi di Antonio Caronia, che probabilmente è stato uno dei pochissimi che in Italia hanno ragionato proprio sul rapporto tra tecnologie, immaginario tecnologico e culture legate all'immaginario tecnologico. È la formazione stessa di Caronia che gli ha permesso di fare questo, perché Caronia era al tempo stesso un uomo di scienza e di tecnica e al tempo stesso un espertissimo della letteratura di fantascienza americana, e quindi la sua capacità di mettere insieme la dimensione tecnoscientifica con la dimensione letteraria o artistica gli derivava in qualche modo dalla sua formazione stessa. Bene, ora stavamo accennando a Norbert Wiener. In questo primo capitolo del suo libro sullo scenario degli anni 60 americani, Fred Turner, ad un certo punto, dopo aver aperto il suo libro con una scena, che è questa scena del movimento studentesco di Berkeley nel 1964, dopo averci detto quali erano le motivazioni, le parole d'ordine, i discorsi del movimento studentesco, e dopo averci mostrato come nel movimento studentesco e in particolare in questo discorso di Mario Savio ci sia una consapevolezza del rapporto tra economia di guerra in questi anni, negli anni 60, negli anni della guerra nel Vietnam, e sistema della ricerca e della formazione. Dopo aver concentrato l'attenzione su questa scena originaria, Fred Turner ci parla di Wiener, di Norbert Wiener. Negli anni 30, già dagli anni 30, Wiener aveva acquistato un considerevole fama per il suo lavoro nella matematica, ma aveva anche continuato a occuparsi di altre discipline, tra cui l'ingegneria elettrica, la biologia e lo studio della computeristica, la scienza informatica. Aveva lavorato in modo particolare con Vannevar Bush, che è uno dei grandi delle menti che hanno anticipato l'informatica moderna, e aveva lavorato strettamente con Vannevar Bush sullo sviluppo dei computer analogici, e aveva iniziato un seminario mensile insieme ad un fisiologo messicano di nome Rosenbluth, vabbè, poco ci importa. Insieme avevano cominciato ad immaginare una struttura istituzionale che avrebbe facilitato lo sviluppo delle scienze informatiche. Dice Wiener: noi avevamo sognato per anni la creazione di un'istituzione di scienziati indipendenti che potessero lavorare insieme in uno di questi backrooms della scienza, non come subordinati di qualche grande ufficio esecutivo, non come subordinati di un'azienda, diciamo, ma congiunti insieme dal desiderio, anzi dalla necessità spirituale di comprendere questa regione scientifica come un insieme, in modo da potersi prestare l'un l'altro gli strumenti di questa comprensione. Eravamo d'accordo sul fatto che su queste questioni, molto prima di avere scelto il campo delle nostre ricerche congiunte e il nostro ruolo in queste, il fattore decisivo che ci fece fare un passo ulteriore in questa direzione fu la guerra. Ora, qua Norbert Wiener scienziato, informatico, fa un discorso che invece è molto, quasi ingenuamente vorrei dire, è molto pulitamente umanistico, politico. Cosa dice? Che all'inizio del lavoro di ricerca su quella che poi diventerà la scienza informatica, la computeristica e così via, c'è un gruppo di scienziati, di pensatori, anche di artisti, bisogna dire, che immaginano la possibilità di costituire un'istituzione indipendente dal sistema economico, indipendente dagli uffici esecutivi e tenuta insieme solo dal desiderio di comprendere meglio ciò di cui ci si stava occupando. Di cosa ci si stava occupando? Ci si stava occupando dell'automazione del cervello, si stava occupando di una possibilità tecnica, produttiva, applicativa, le cui conseguenze, la cui portata si poteva già allora immaginare come gigantesca nei suoi effetti. E da allora, dice Norbert Wiener, sognavamo, dice proprio, we dreamed of, we had dreamed for years of an institution of independent scientists. Avevamo sognato alla possibilità di costituire, se vogliamo noi potremmo anche raccontare l'intera storia della modernità, a partire dalla presenza dall'azione di tre grandi figure antropologiche, che sono la figura del mercante, la figura del guerriero e la figura del sapiente, in un certo qual modo, no? E noi vediamo che la storia dello sviluppo da Cristoforo Colombo in poi, no? In qualche maniera, nello sviluppo della modernità, si gioca su queste tre funzioni dell'umano. Sono una la funzione, all'origine direi la funzione del sapere, della scoperta, della ricerca e della scoperta, e poi della concettualizzazione, della nominazione, insomma la funzione del conoscere come attività che in qualche modo ha una propria indipendenza, una propria autonomia. Poi abbiamo invece la funzione del mercante, la funzione dello scambio, dell'accumulazione, della produzione anche, che si identifica socialmente attraverso lo sviluppo dell'industria, ecco, l'uscita da una dimensione in cui la produzione del necessario per la vita è in qualche modo consegnata alla tradizione, nelle società di tipo tradizionale, nelle società di tipo premoderno, preindustriale, e quindi in fondo il sapere è un sapere tradizionale. Certo, bisogna sapere che se metti dei semi per terra ne verrà fuori un albero di mele invece che di carciofi, quindi c'è un sapere nella società agricola, ma si tratta di saperi tradizionali e il rapporto tra sapere ed economia è un rapporto che in qualche modo appartiene alla tradizione, vorrei quasi dire alla natura, anche se non è proprio così. E invece la modernità è scandita, segnata, marcata da una nuova relazione tra sapere ed economia. L'economia ha bisogno del sapere per il suo sviluppo e il sapere ha bisogno dell'economia per il suo sviluppo. Si crea una sorta di condizione di doubt des, di scambio strumentale. Quando Cristoforo Colombo va da Isabella e Ferdinando per chiedergli i mezzi per poter sviluppare il suo sapere e per poter verificare che la sua ipotesi di tipo scientifico relativa alla forma, alla struttura del pianeta era fondata, era vera, e per cui se andiamo di là raggiungeremo lo stesso posto che raggiungiamo se andiamo di qua. E quando va da Ferdinando e Isabella gli dice: guarda che io ti chiedo di armare 3 caravelle perché in cambio io ti porterò una ricchezza, e questo è accaduto, e come è accaduto, con gli interessi, e hai voglia. Ecco, quell'atto costitutivo, quell'atto che noi consideriamo come l'atto che inizia la storia della modernità, non a caso, perché in gioco sono le funzioni del sapere e dell'accumulare in qualche modo. Ma c'è una terza funzione che vediamo fin dall'inizio implicata ed è la funzione militare, la forza, la violenza, l'imposizione violenta del dominio. E dunque Colombo si rivolge al mercante, e il mercante convoca il guerriero, perché quel atto che sarà poi l'atto di conquista possa svolgersi. Naturalmente non pretendo che in questa maniera abbiamo detto tutto, perché poi ciascuna di queste funzioni è più complicata. Ad esempio, il guerriero porterà con sé il prete, e il prete a quale sistema appartiene? Quello del sapere o a quello della guerra? E all'uno e all'altro, perché è grazie al prete che diventa poi possibile sottomettere stabilmente le popolazioni che la spada ha temporaneamente sottomesso. Quindi la dinamica che accompagna la colonizzazione è una dinamica in questo senso complessa, ma in fondo è poi una dinamica a 3 teste che continua nel corso della intera modernità: la ricerca, la formazione, continuamente messe al lavoro dalla funzione accumulativa, dalla funzione economica. E però al tempo stesso la funzione accumulativa dell'economia deve continuamente fare i conti con la specificità del sapere, eccetera. Noi ritroviamo questa questione al cuore del movimento studentesco degli anni 60. La frase di Mario Sabbio che abbiamo letto prima, che passa alla storia in qualche modo come l'atto fondativo del movimento studentesco americano, è una frase carica di questa consapevolezza: il sapere vuole essere indipendente dal dominio dell'economia. Cioè, c'è proprio una critica alla dinamica fondamentale della modernità in questa frase di Mario Savio. E qua, quando Norbert Wiener dice: noi avevamo sognato per anni all'istituzione a una istituzione di scienziati indipendenti, bla bla bla bla, in questo dice proprio che nel Novecento ritorna fuori questa volontà, questo desiderio, questa intenzione di costituire la funzione intellettuale nella sua indipendenza. Norbert Wiener poi si mette a lavorare all'interno del Massachusetts Institute of Technology, all'interno delle grandi istituzioni accademiche americane, che però poi sono anche istituzioni legate all'economia, e qualche tempo dopo noi vedremo che Wiener si interroga su quello che sta facendo. Sono gli anni della guerra, gli anni in cui, peraltro, ad un certo punto, questo problema del rapporto fra sistema militare, economico e militare, negli anni della guerra naturalmente il sistema militare ha una funzione decisiva, determinante, e sapere si ripropone, e si ripropone fra l'altro in occasione della creazione della tecnologia nucleare, della tecnologia che porta alla costruzione della bomba atomica. Ho già citato un libro per me molto bello, l'ho già citato mi pare un paio di un libro di Robert Jung che in italiano porta il titolo Gli apprendisti stregoni. Il titolo inglese di questo libro è, se non mi ricordo male, Brighter Than Thousand Suns, o Brighter Than Than Thousand Suns, più luminoso che mille soli, la bomba atomica. Libro che in Italia è edito da Einaudi con questo titolo, Robert Jung racconta della formazione della struttura di ricerca che porta alla produzione della bomba nucleare negli anni della guerra tra il 42 e il 45, una cosa che è nota come progetto Manhattan, il progetto Manhattan, che è un progetto che viene realizzato dal governo degli Stati Uniti e dal sistema militare americano nel centro di ricerca di Los Alamos. Il contesto è semplice da descrivere, è pieno della guerra, nel 42 Hitler ha una prevalenza militare in Europa, gli Stati Uniti hanno deciso di intervenire nella guerra dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbor nell'ottobre del 41 e il destino della guerra è tutt'altro che facile da immaginare, anzi diciamo pure che a quel punto la prevalenza militare è tedesca in Europa e giapponese nel Pacifico. I tedeschi e i giapponesi hanno attaccato per primi ed hanno una prevalenza militare evidente. L'intera Europa è tedesca nel 41-42 come oggi. E cancellate le ultime due parole. E questa prevalenza rischia di diventare definitiva se, come si vocifera da qualche parte, Hitler giungerà per primo alla produzione della bomba nucleare. C'è un gruppo di scienziati tedeschi che hanno lavorato, insegnato, cioè ricercato, particolarmente nella città di Göttingen negli anni 30, e che hanno lavorato proprio alla scissione dell'atomo e alla teoria che precostituisce le condizioni per lo sviluppo di una tecnologia che è quella che poi può portare alla creazione della bomba. Naturalmente e nella comunità scientifica tutti sanno che questo non, insomma, la tecnologia non è ancora stata realizzata, ma che sul piano teorico esistono tutte le condizioni per realizzarla. E Hitler ha il vantaggio di, diciamo, di avere lì un gruppo di ricerca, però in questo gruppo di ricerca diversi scienziati sono ebrei e alcuni sono anche comunisti, e quindi nel corso degli anni 30 molti di questi se ne sono andati, la più parte se ne sono andati negli Stati Uniti d'America, per esempio Albert Einstein, per esempio Robert Oppenheimer e vari altri. Qualcuno però è rimasto in Germania, per esempio Werner Heisenberg, che è un fisico di prima importanza, il cui ruolo è equivoco. Non si sa se Heisenberg intende collaborare con Hitler, per la verità non lo sappiamo del tutto neanche adesso, nel senso che qualcuno ritiene che Heisenberg sia rimasto in Germania e ha continuato a lavorare normalmente, ma che d'accordo con i suoi colleghi fuggiti negli Stati Uniti abbia svolto un ruolo di sviamento, cioè abbia finto di sviluppare le ricerche verso la creazione della bomba atomica, ma che in realtà abbia fatto tutto il possibile per ritardarle, per impedire a Hitler di mettere le mani sulla bomba, diciamo così. Contemporaneamente in America il governo americano convoca un certo numero di scienziati e il libro di Jung ci descrive giornalisticamente questa storia, convoca questo gruppo di scienziati per chiedere loro di trasformare le loro intuizioni teoriche in una tecnologia per la creazione della bomba. E si sviluppa fra questo gruppo di scienziati una discussione drammatica, perché alcuni di loro dicono, ad esempio Albert Einstein dice no, io Einstein è ebreo, naturalmente non poteva avere simpatie per i nazisti, però ritiene che la produzione dell'ordigno nucleare sia un pericolo talmente finale, talmente devastante, che la scienza non deve piegarsi a questo ricatto. Ecco, noi ci troviamo proprio in questo caso di fronte al ricatto del guerriero nei confronti dello scienziato. Il guerriero che si batte per un ideale negativo o un ideale positivo si rivolge al sapiente e gli chiede di fare la sua parte. Se non vuoi che le forze del male prevalgano rispetto alle forze del bene, devi... ma lo scienziato non conosce le forze del male e le forze del bene, perché quelle sono categorie da guerriero, che non entrano nella sfera del pensiero scientifico. E quindi Einstein dice la scienza non può accettare di farsi strumento della devastazione. E altri invece, come Robert Oppenheimer, pensano che il pericolo rappresentato dal nazismo sia un pericolo talmente grande, non solo per la sopravvivenza loro, di qualcuno, ma per la sopravvivenza dell'umanità in generale, che bisogna accettare il ricatto del guerriero. Ed effettivamente questo ricatto viene accettato, il progetto Manhattan sviluppa la sua realizzazione e alla fine nel 1945, come voi sapete, la guerra sul fronte pacifico viene conclusa con il lancio e l'esplosione di due ordigni nucleari nelle città di Hiroshima e di Nagasaki. Ecco, era indispensabile questo? Naturalmente sul piano politico-militare noi possiamo fare tutte le congetture che vogliamo, possiamo dire con buona ragione che effettivamente il pericolo di un prevalere del nazismo giustificava lo sforzo militare americano. Qualcuno può anche dire che il Giappone continuava nella sua guerra in maniera strenua e quindi solo con la bomba atomica si poteva concludere quella guerra che continuava a costare vite umane per l'esercito americano, eccetera. Qualcuno lo contesta, si sostiene che in realtà Hiroshima e Nagasaki sono stato un esperimento, che non c'era nessun bisogno di lanciare la bomba, i Giapponi erano ormai finito, sarebbe bastato aspettare ancora un poco e la cosa sarebbe conclusa, e gli americani hanno voluto verificare che tutto funzionasse. Naturalmente su questo esiste tutta una letteratura, ma a me non interessa entrare nel merito di questi diatriba, mi interessa il punto originario, il punto che porta ad una frattura tra Albert Einstein e Robert Oppenheimer, e questo punto originario, questo elemento centrale è relativo al rapporto tra il sapiente e il guerriero, direi, tra la funzione conoscitiva e la funzione militare. E, ecco, come vedete, stiamo parlando di una problematica che emerge negli anni 60 nella cultura americana e poi nel movimento studentesco internazionale, ma è una questione che in fondo attraversa l'intera storia della modernità. E sempre gli sviluppi della ricerca, del sistema scolastico, del sistema universitario sono eccitati, limitati o ampliati dall'interesse economico e dall'interesse militare. E dunque che questa dinamica nel bene e nel male, perché non dobbiamo descriverla in maniera moralistica come una bieca strumentalizzazione economica o militare del sapere, bisogna vedere la cosa nella sua complessità. È anche vero che la borghesia industriale moderna ha creato condizioni per lo sviluppo del sapere che certamente non esistevano nella teocrazia medievale o che certamente non esistevano nelle condizioni dell'economia contadina di tipo tradizionale, feudale, eccetera, eccetera. Dunque la dinamica moderna come interazione continua tra innovazione tecnico-scientifica e utilizzazione economica o militare è una dinamica che giunge fino alla consapevolezza controculturale degli anni 60. Ecco, quindi questo è un po', diciamo così, il punto di vista a partire dal quale voglio vedere lo sviluppo delle tecnologie digitali, del sistema digitale, di tutto ciò che negli anni 80-90 prende nome di cibercultura. Ma torniamo a Norbert Wiener. Dopo i sogni, Norbert Wiener si mette a lavorare. Siamo nel 1948, entro un anno Wiener incominciò a immaginare di poter riprodurre, duplicare il cervello umano con circuiti elettrici. A partire dal 1948 aveva trasformato la metafora computazionale nella base di una nuova disciplina. Nel suo libro Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, quindi un libro sulla cibernetica, aveva definito la cibernetica come un campo focused, concentrato, un campo attento allo studio dei messaggi come mezzi per controllare il macchinario e la società. La cibernetica dunque sarebbe un campo scientifico che studia la relazione tra segni, messaggi e reazioni macchiniche e sociali. Dunque la cibernetica studia il mondo umano, il mondo tecnico ed il mondo sociale come se fossero una estensione una estensione del cervello, come se il cervello potesse essere preso a metafora del funzionamento sociale complessivo. E i messaggi, dice Wiener, come lo studio dei messaggi come mezzi per controllare il macchinario e la società. E la parola macchinario sembra qui includere, almeno per analogia, gli stessi organismi biologici. Per Wiener, il mondo, like the anti-aircraft predictor, così come una tecnica che prevede il movimento degli aerei, era composto di sistemi collegati da messaggi. In riferimento agli aerei, al predictor anti-aircraft, è relativo alla carriera di Norbert Wiener, perché negli anni precedenti, durante la guerra, negli anni 40, Wiener aveva lavorato insieme ad un altro che si chiama Bigelow, avevano lavorato alla creazione di sistemi, di meccanismi per la, come si può dire, previsione, predescrizione, predeterminazione della posizione degli aerei nemici, cioè le batterie di combattimento, insomma dell'artiglieria che deve sparare agli aerei, doveva essere in grado di prevedere la posizione dell'aereo nel momento in cui il proiettile l'avrebbe raggiunto. Per fare questo bisogna sviluppare delle conoscenze particolari, conoscenze che, nota Wiener, debbono tenere conto di diversi fattori. Uno, un fattore puramente fisico-matematico, cioè lo spostamento di un corpo che va ad una certa velocità, ma c'è anche un altro fattore, cioè la volontà del pilota, che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi bisogna fare anche dei calcoli relativi a ciò che il pilota sa di te. Insomma, si tratta di un sistema complesso nel quale elementi fisici, elementi psicologici vanno tenuti in considerazione per la creazione di una predizione, di una previsione che permetta poi di governare un servomeccanismo, eccetera. Ecco dunque, partendo da queste ricerche, negli anni successivi Wiener è andato sviluppando una scienza che lui chiama cibernetica, che considera le macchine, i corpi, insomma l'insieme sociale come l'articolazione, la manifestazione di un sistema di scambio, decodificazione, ricezione e decodificazione di messaggi. Come l'informazione di Shannon, allo stesso modo i messaggi di Wiener erano circondati da rumore, eppure in qualche modo mantenevano la loro integrità. Qui c'è un riferimento a Claude Shannon, altro teorico che sta all'origine della scienza computeristica moderna. Claude Shannon è autore di una cosa, di un libro che si chiama Teoria dell'informazione, e Shannon sviluppa una teoria relativa al rapporto tra informazione e rumore, il rumore essendo la dispersione che l'ambiente che conduce un segnale determina sul segnale medesimo. Il segnale viene emesso da un emittente e ricevuto da una macchina ricevente o da un organismo ricevente, ma la trasmissione si svolge all'interno di un ambiente, l'ambiente fisico, l'ambiente è un ambiente anche insomma, che contiene altre informazioni, oltre che degli agenti atmosferici e così via. E in questa trasmissione il segnale perde definizione a causa di tutti quegli altri messaggi che, non essendo congruenti, si possono definire come rumore. E Shannon ha lavorato su di un campo che per molte ragioni incontra quello di Wiener. In particolare, l'uno e l'altro finiranno poi per formulare un'ipotesi generale, che un'ipotesi, una teoria dell'informazione che fa centro intorno al concetto di entropia come dispersione dell'ordine contenuto all'interno di un segnale. Il concetto di entropia, che viene dalla teoria della termodinamica, termodinamica, noi diciamo che nella trasmissione di calore da un corpo A ad un corpo B vi è sempre una dispersione di calore, e dunque il calore tende verso l'azzeramento. Però da questo, dal campo della termodinamica, la nozione di entropia passa poi ad avere rilevanza in molti altri campi, per esempio nel campo dell'informazione, dal momento che possiamo dire che in ogni trasmissione di informazione vi è una perdita di ordine, vi è una perdita di purezza, diciamo così, del segnale originario. E se da qui ci trasferiamo su una teoria generale del divenire come processo di tipo informativo, possiamo dire che l'universo tende verso una perdita di ordine. In modo particolare, nella teoria dell'informazione, Shannon e Wiener si concentrano su questa questione della trasmissione informativa come caratterizzata da un fenomeno di tipo entropico. Come l'informazione di Shannon, anche i messaggi di Wiener erano circondati da un rumore, eppure mantenevano in qualche modo la loro integrità. Così anche fanno gli organismi e le macchine. Incorporando e rispondendo al feedback attraverso meccanismi strutturali, spiega Wiener, sia gli uni che gli altri si mantengono in uno stato di omeostasi. L'omeostasi, la capacità di mantenersi simili a se stessi, diciamo, la continuità dei fenomeni naturali è paragonabile a questo fenomeno di trasmissione dell'informazione, in cui si verifica una perdita d'ordine, tant'è vero che gli organismi tendono ad invecchiare. Che cos'è l'invecchiamento di un organismo umano? È un fenomeno di tipo entropico. L'ordine originario, con la parola ordine qui mi riferisco alla coerenza informativa ma anche strutturale di un fenomeno come può essere un organismo biologico, la perfetta coerenza informativa dell'organismo alla sua origine, il gene, va soggetta ad una progressiva perdita d'ordine, man mano che l'organismo, che originariamente è una sorta di concentrato di informazione, no? L'informazione genetica per l'appunto, man mano che l'organismo si confronta con l'ambiente, progressivamente perde coerenza, perde ordine. Ad esempio io in questo momento ho la faringite e questo influisce molto gravemente in termini entropici sulla mia capacità di essere l'organismo che potenzialmente sarei. L'invecchiamento e poi il deperimento e la morte di un organismo possono essere considerati come fenomeni provocati dall'entropia. In questo senso Wiener pensava che i modelli, che i sistemi biologici, meccanici ed informativi, compreso quelli dei computer digitali che a quell'epoca erano soltanto in fase informativa, then emerging digital computers, stavano solo emergendo, questi sistemi biologici, meccanici ed informativi potessero essere visti come analoghi l'uno rispetto all'altro. L'organismo, la macchina ed un sistema di informazione si possono ricondurre ad un'unica teoria generale. E questa teoria generale è per l'appunto quella della trasmissione di informazione che però, come dicevamo, è trasmissione di tipo entropico. Tutti controllano se stessi mandando e ricevendo messaggi e metaforicamente almeno tutti erano semplici modelli di informazione ordinata in un mondo che altrimenti tende verso il rumore e verso l'entropia. Beh, io adesso vi farei una breve pausa e poi riprendiamo con siamo nel 1948 quando Wiener giunge alla formulazione di questa sorta di ipotesi unificata che lui definisce cibernetica, per cui possiamo dire che la cibernetica è una teoria unificata dei cervelli organici, delle macchine e dei sistemi informativi, sotto un unico grande modello che è il modello di Shannon formulato nella teoria dell'informazione sottoposta ad entropia. Dunque, Wiener giunge a questa formulazione, negli anni successivi scrive quell'altro libro che abbiamo citato prima, Introduzione alla cibernetica, ma nel corso degli anni 50 e 60 Wiener viene preso da una specie di tormento, che è un tormento che noi ritroveremo in gran parte dei ricercatori, degli scienziati che lavorano in questo ambito, e che è un tormento relativo al rapporto tra il sapiente, il mercante e il guerriero. Un tormento relativo alla consapevolezza del fatto che la ricerca alla quale stiamo partecipando come scienziati, per esempio, è una ricerca che finisce per essere direttamente o indirettamente sottoposta allo sfruttamento del mercante o alla violenza del guerriero. Ecco, ripartiamo da qui fra 20 minuti, 15 minuti. Dunque, notte a margine, la settimana prossima io non ci sono, l'avevamo già detto, e quindi ci rivediamo, e poi c'è il primo maggio, no, c'è tutta una settimana integra nella quale invece noi ci vedremo per la precisione.